Buongiorno, mi presento, sono Lidia Carovana di un'associazione culturale da un quarto di secolo a Bologna. Vorrei leggervi un passaggio del libro di Mahmoud Traoré e Bruno Le Tontec, Partire, un'odissea clandestina. L'ho scelto per due motivi. Primo, avremmo dovuto il condizionale e d'obbligo presentare il libro il 17 aprile alla libreria Trame a Bologna in presenza dell'autore che vive a Siviglia. Secondo, evidenziare che in questi momenti continua l'odissea, la fuga disperata di migliaia di persone al confine greco-turco e non solo. Quarto capitolo del libro che si chiama Il deserto dei deserti. Quella sera il convoglio si ferma in un luogo angusto e i Tuareg ci ordinano di scendere. Lasciamo i bidoni d'acqua più pesanti a bordo ed è un errore. Non appena l'ultimo passeggero è sceso dai veicoli, i trafficanti spingono sull'acceleratore e partono, abbandonandoci sul posto. Abituato a vederli partire con i loro mezzi per studiare i dintorni sul far della sera, tardiamo a renderci conto che questa volta se ne sono andati davvero. Disgustati, restiamo lì a chiederci l'un l'altro: dove diavoli saremo? Quando all'improvviso, pam pam pam, vengono sparati dei colpi d'arma di fuoco. Sono i Tuareg algerini che vengono a raccogliere la loro mercanzia. Sparano in aria e gridano: tutti a terra, il primo che si muove si pecca una pallottola, vi ammazziamo come cani. Sono in quattro, armati di fucile, e ci separano per nazionalità per tenerci a bada più agevolmente. Senegalesi di qua, nigeriani di là, nigerini da quella parte. Nel frattempo ci rassicurano: stanno arrivando delle macchine per portarvi in Libia, avranno acqua e cibo. Promettono di aiutarci e comunicano le tariffe. Per i nigeriani saranno 50.000, per i senegalesi 40.000. Non lo sappiamo, ma ci attendono ancora 4 o 5 giorni di viaggio. I passeur abbandonano sempre i loro clienti prima di entrare in Algeria. Preferiscono non imbattersi nei Tuareg che controllano la zona. Se gli algerini tardano ad arrivare, i migranti possono morire di fame sul posto. Il passaggio di consegne viene accompagnato da colpi di pistola sparati in aria con l'obiettivo di terrorizzare il gruppo e poterlo prendere più facilmente sotto il proprio controllo. Tutto è probabilmente frutto di un accordo fra tribù. Non a caso, appena scomparsi i passeur di Agadez, sono arrivati gli algerini. Si racconta che sia in corso una guerra senza quartiere per il controllo dei territori e di ciò che li attraversa. Le bande di trafficanti si rubano veicoli e carichi e spesso qualcuno ci lascia la pelle. In una prossima puntata vorrei leggere l'ultimo capitolo, che è l'assalto della frontiera a Ceuta, verso Ceuta.